Se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. "24 Mattino" di Alessandro Milan. Ehi, buongiorno! Oh, casomai non vi rivedessi? Buon pomeriggio, buonasera e buonanotte. Stasera vado fuori, sento troppa compressione, meglio uscire che scoppiare. Sarà un grande successo, sarà il più grande successo del movimento Roma. Roma sarà il più grande successo? Sì, sì, sì, sì, da quello che ho visto io, sì. Perché? Perché, sì, ma perché abbiamo le persone per bene giuste finalmente. Abbiamo le persone per bene e possibilmente nei posti giusti. Sembra un po' più stretto, forse han tolto dagli specchi, io mi sento un po' impedito. Nessuno dice di no, noi diciamo di sì, ma da qualche parte che non sia quello, perché se c'è una zona che non desonda magari è meglio. Che adesso c'ho bisogno di rumore e non pensare al freddo che c'è fuori, che è venerdì. Ma com'è? Ma cosa pretendete dal Movimento 5 Stelle? Cosa pretendete dalla Raggi? Che venga qua e cosa fa in una situazione così? O ci date una mano tutti? Ci dovete dare una mano tutti! Dei mali. Arriva un tipo che mi offre un po' di Viagra e poi mi dice che lo mette a molto poco. E le ragazze sono sudate, sono giovani e impegnate, che ballare adesso non è mica un gioco. E un paio che ci lasciano provare. E insomma non andiamo. E allora è venerdì, signori. Sono le 6:32 minuti, come canta Ligabue. È venerdì! Urliamolo tutti insieme, Milan! È venerdì! Ebbene sì. Oh ragazzi, c'erano 8 gradi a Milano stamattina. 8 gradi! È venerdì! Non mi rompete i coglioni, mia bella sposa. Ebbene sì, lo dice Ligabue. Lo dice Ligabue. Allora signori, sono le 6:33 minuti di questo venerdì, 8 gradi a Milano. A Playa del Carmen, ci fa sapere il nostro amico Salvatore che ci ascolta da lì in Messico, ci sono 28 gradi. Mentre Chiara da Perth ci fa sapere che ci sono 35 gradi. Oh, non stiamo impazzendo, è che noi abbiamo il pubblico così internazionale che ci ascolta da ovunque. A Lugano 9 gradi praticamente estate. Vedete, Lugano sarà a 100 km da Milano, quindi capite che anche in Svizzera. A Roma Nord 11 gradi, a Roma Sud chi lo sa. Noi lo facciamo sempre e tutto per Mauro Corona, che giudica questo è uno dei momenti più inutili di Radio 24. A Cernusco sul Naviglio, che è in provincia di Milano, 7 gradi. Mentre 4 a Sorisole, provincia di Bergamo. Se mi dite anche chi, come vi chiamate, magari vi salutiamo e facciamo un buon weekend. Angela ci fa sapere che a Berna ci sono 4 gradi e piove uffi. Piove uffi. Cosa sono gli uffi? Piovono uffi? No. Piove, virgola, uffi. Oh, guarda qua, ci ascoltano anche da Barcellona un ascoltatore, 12 gradi. Io lo capisco che non mi fottono, perché il numero di telefono è internazionale, 0034. No, no, non Barcellona Pozzo di Gotto, no, no, Barcellona, quella dove sta Messi, Neymar, capisci, quella lì. 10 gradi a Noci. Va bene. Allora, signore, le 6:34 minuti. Va bene. Non mi rompete i coglioni. Va bene, dai, devo salutare subito Vincino, buongiorno. Buongiorno. Quanti gradi? Beh, Mauro Corona giudica questo il momento più inutile di tutto il palinsesto di Radio 24. Quando io dico i gradi, dice: una radio seria come voi non potete fare questa cosa inutile. Quindi, dove sei tu? No, sono a Roma. A Roma. Gradi non lo so. Gradi non lo so. Quindi vedi che è proprio inutile praticamente tutta questa cosa. Totalmente. Saluto allora. Ti saluto. Guarda, ti scarto subito. Saluto il senatore Stefano Esposito. Buongiorno, senatore. Buongiorno a voi. Dove sta? A casa, a Torino, 7,1 gradi. Oh, in questo momento bellissimo. Vedete un uomo sabaudo, un così, insomma, 7,1. Se così dice. Attenzione, se Stefano Esposito sta a Roma vuol dire che oggi preparerà la colazione a Virginia. A Torino. Sì, a Torino, sì, preparerà la colazione a Virginia. Esattamente quello che sto facendo. Ok. Colazione per Virginia, la nostra piccolina adottiva, cos'è? Ecco, sto facendo il latte perché lei non prende il latte di mucca, solo latte di riso. Latte di riso. Mamma mia, vai. Il accompagnate latte senza fare pubblicità a nessuno. No, ma dei... Da morbidi amici. Morbidi amici. Morbidi. E lascio tu. Lasciamo. I morbidi amici. Amici, vabbè. Così sì. Va bene, è l'unico momento di dolcezza, caro Stefano Esposito, della giornata, perché poi si deve occupare di queste simpatiche questioni all'interno del Partito Democratico. Mannaggia ragazzi, ci risiamo col Partito Democratico. Le faccio una domanda subito secca, visto che Vasco Errani è stato pizzicato a dire che va tutto male per la ricostruzione del PD, del Sisma, dovrebbe dimettersi dalla posizione che ricopre? Ma no, io ho visto la cosa che ha pubblicato Il Fatto. Ma sì. Insomma, panorama. Mi pare che panorama. Ma a me pare che più che altro fotografasse un problema relativo più che alla ricostruzione, all'emergenza. Mm-hmm. Parlava di casette. No, ho sufficiente stima per dire che secondo me è la persona migliore per fare quel lavoro complicatissimo della ricostruzione. Che però la penso così, poi se dovessimo coprire altre cose, ma direi che è una persona per bene. Sì, che può ricoprire quel ruolo, può rimanere lì. Lo dice anche lui in un'intervista al Corriere, lo dice. Dai, apriamo il Parlamento, perché qui voglio capire da Vincino. No, ragazzi, se uno esce per prendere un caffè e gli state sopra così, io vi voglio bene. Vincino, forza, hai visto forza, che Renzi... Correte al Parlamento! Renzi è in California. Tra l'altro ha detto: non vado a fare il fighetto. Oggi uno apre, c'è Boccia del Partito Democratico. È proprio andato a fare il fighetto. Cioè, se l'è tirata addosso. Hai capito perché Renzi sta in California? Ma c'è l'apertura del nuovo park, quel di Apple, quella gigantesca. No? Ho capito, è che si lui, è tutto, chi può ci va, anche io sarei là se, no, se potessi, sarei là. T'avrei chiamato, nel senso lo stesso, cioè i telefoni. Assolutamente, ma sei l'unico che in questo momento sta nel posto dove guarda la modernità davanti agli occhi. Ah, stai diventando, stai tornando a essere renziano? No, scusami, ma tra le beghe così... tardo emiliane italiane, no, come dire, o orlandiane, insomma, di scarso livello, diciamo, no? Le cose, è questo che va là, parla con quello della Tesla, che ne so, insomma. Parla con quelli che stanno lavorando per il futuro. Vabbè, fa bene, quindi guarda il futuro. Va bene. No, lo so, se poi dopo torna con un buon racconto e ha delle buone idee. Buon racconto, no, riprendiamo con lo storytelling. Lo storytelling. Esposito è un renziano doc. Possiamo però dire che questa storia dello storytelling ci ha un po' sfrangiato i maroni, per usare un eufemismo, o no? O è troppo irriverente? Io infatti non la nomino neanche quella parola. Storytelling. La trovo veramente una roba tristissima. Narrazione, meglio così. Narrazione. Ma più che narrare, noi dobbiamo fare. Appunto. A furia di narrare, chiunque lo faccia, che poi capisco, però noi abbiamo bisogno di fare, quindi tutto ciò che può produrre un'idea che si trasforma in qualcosa di concreto che la gente possa percepire, a me non disturba. Poi così stato in Renzi avrei evitato di dire mentre la politica litiga, no, perché tra le altre cose anche lui un po' ha litigato, anche lui, diciamo, uno degli oggetti della attenzione, Esposito sta criticando Renzi, attenzione, forse esce anche Esposito, forse è uno scissionista. Io non esco da nessuna parte, mai fatto scissioni, non comincio adesso, poi con chi, con D'Alema, tipo, vabbè, buonanotte. con Emiliano. No, Emiliano non si è scisso. Con Orlando. Neanche Orlando si è scisso, quello è il congresso. No, ho capito, dico, va con Orlando. Confusione. Lo dico con grande serenità, il congresso è il massimo momento di libertà dentro un partito, quindi a me non disturba. Col signor Rossi, il signor Rossi. Il signor Rossi sarebbe stato bello, secondo me ci sarebbe stata anche la campagna congressuale interessante con un bel cartone animato da fare, era divertente. Esatto, te lo ricordi vicino al signor Rossi? Era fantastico. Poi dobbiamo trovare anche il signor Bonaventura. Sì, ma era di 40 anni, 30 anni fa, 20 anni fa, Bonaventura è 100 anni fa, futuro davanti. Il futuro, Tesla, Musk. Esatto, dobbiamo riorganizzare tutto. Abbiamo un'Italia antica, 50 anni fa, 60, come dire, e dobbiamo costruire un'Italia moderna. Vabbè, ecco, adesso arriva la ricetta renziana, dai, abbia capito il 90% delle stupidità che ha fatto, c'è tutto. E riparta da lì. Sentite, per esempio, Annarella. Ve la ricordate Annarella? I satanassi della Zanzara sono andati a ripescarla. Annarella, una breve lettura di quello che sta succedendo all'interno del Partito Democratico da parte di Annarella. Pensi. Emiliano è il fiore della mignotta. Pure lui. Pure. Era tanto bravo, c'ha un odio verso Renzi. Io non so, che te ne faccio, poraccio? Fammoli ammazzare tutti. Bezzani e Speranza. Se ne devono... I becco uno a uno. Quel porco di D'Alema che è il fiore della mignotta. Non lo posso vedere. Fatti i cazzi tua, signora. Ecco. Ma questo è un Vincino, è un editoriale di Annarella. Forse ha le idee abbastanza chiare, devo dire. Esposito, ma Annarella si vede ancora da quelle parti davanti al Senato? A me è un po' che non capita di vederla. Ha avuto un po'. Ha fatto un editoriale con un finale alla Razzi. Alla Razzi, sì, esatto. Da lei, l'ho trovato. Comunque, è il momento in cui bisogna essere allegri, è il momento in cui bisogna essere contenti. Ma che scissione! Rimane nel Partito Democratico, appunto, Emiliano. E se avete le palette alzate, pronte da 0 a 10, io vi farei dare un voto a Emiliano. Vincino, tu hai le palette da 0 a 10, pronte? Meno uno. No, aspetta, ti devo far sentire prima. Sei un po' prevenuto. Sei un po' prevenuto, non ti ho ancora fatto sentire. No. Emiliano, che di fronte ai microfoni di quei geni di Radio Rock, canta Buonanotte Fiorellino. Buonanotte Fiorellino. Buonanotte tra le stelle e la stanza. Per sognarti devo averti vicino, e vicino non è ancora abbastanza. Ora un raggio di sole si è fermato, bravo, proprio sopra il mio biglietto scaduto. Tra i tuoi fiocchi di neve e le tue foglie di tè. Buonanotte, questa notte è per te. Senta, presidente, mi viene un paragone. Il fiorellino chi è? Renzi? No, è la mia prima fidanzata. Buonanotte tra il mare e la pioggia. E poi riprende a cantare, Esposito, capito? Così, cioè, è un'intervista politico e via. Però bravo Esposito, gli vogliamo dare un bel voto da 0 a 10, bravo. Ma sì, adesso mi sembra un 6, se l'ha strappato. Un 6, no? Non si fermava più, poi continuava cantando, ho dovuto togliere la base. Perché ci sono passioni che non si fermano, come si dice. Questa notte è per te. Ok, Presidente, a chi la dedichiamo? Grazie, questo è stato bello. La dedichiamo a tutte le persone a cui voglio bene e quelle che hanno bisogno di una carezza per dormire meglio. Ma okay. Che siamo... Renzi niente? Anche per Renzi, ovviamente. Anche per Renzi, oh, ce l'ha fatta. Vincino, forza, puoi dare il tuo voto. È già diventato papa lui, già. Papa? Che, da, sì, dà la carezza prima di dormire, no? Papa sì. Giovanni. Sì, certo, date una carezza ai vostri figli. Esatto, e lui già è diventato papa, cioè non saprà manco fare il magistrato questo qua. Ma no, dai! Totale, guarda, negato totale. Ma eccola, ma meno perché? 10, ma... Guarda, ero meno uno, era, ora dopo che lo sento cantare, meno 7, meno 8. Andiamo al traffico, dai, che poi riprendiamo. E vai col traffico! Certo, un PD unito nel spartirsi le poltrone, ma va là D'Alema. Agghiacciante quello che dicono, è una vergogna. Vincino, facci una cortesia, levete, vattene, fai una scampagnata, vattene in Seneca, ma se può sapere che voi, qui l'unica persona che sta smuovendo sto paese è Matteo Salvini. Ed è venerdì, non mi rompete i coglioni. Secondo lei comunque quando si andrà a votare? Si parla addirittura di giugno, metà giugno, con le amministrative. Quanto è reale, è possibile se fossi cosa? In grado di avere queste certezze, giocherei... Sarebbe al all'otto. E tanto ci dica chi voterà le primarie. Renzi, Emiliano o Orlando? Io credo di dover sostenere Renzi, chiedendo a Renzi di fare alcune innovazioni profonde. Ecco, e infatti lui è andato in California a studiare, caro Presidente De Luca. Allora, abbiamo anche un po' scherzato, però io vorrei chiedere a Stefano Esposito se davvero questa storia delle votazioni e delle elezioni anticipate a giugno, pare che Bersani abbia detto conosco il soggetto, si riferisce a Renzi, lo conosco, ora ha fatto 30, vorrebbe fare 31 e puntare a giugno. Ma davvero bisogna votare a giugno? Ma io l'ho detto il 5 dicembre, quella era la mia opinione il 5 dicembre, però mi pare che i fatti ci portino da un'altra parte, perché adesso al di là della data delle primarie, che personalmente preferirei che fossero a maggio a questo punto, perché così facciamo un congresso a proposito di profonde innovazioni che anch'io ritengo necessarie, possiamo discutere un po' di più. Perché quindi arrivare proprio alla fine della legislatura? No, guardi, il problema però bisogna raccontarsi la verità. Cioè, c'era chi voleva andare a votare a giugno, è stato trattato come una specie di pericoloso sovversivo, non solo dentro il PD, ma anche fuori dal PD, escludendo Grillo, penso anche alle cariche istituzionali. La legge elettorale non ne parla più nessuno, prima era un problemone fino a qualche giorno fa, mo non ne parla più nessuno. Tutti serenamente, quindi onestamente se non si vota a giugno per votare ad ottobre, no, quelle cose che... È difficile. Oh, ma Vincino, c'è la seconda cosa che ci dice da semiscissionista, stai a vedere che adesso Esposito, Renzi lo fa fuori appena arriva... Sopravviveremo. No, ha capito Vincino. È un po' opportunista stamattina. No, un po', diciamo. No, come opportunista? Io ho detto scissionista. Da 6 a Emiliano, come dire, non si capisce perché. Da 6 a Emiliano. Non nominate Emiliano affiancato al mio nome perché hai dato 6 effettivamente. Meno 3, vabbè, ma gli ha dato 6 per come canta, cosa c'entra? Ma come canta, mica come come canta. Come canta gli si può anche dare 6. Poi io secondo me non ho capito, nella sua Puglia ci sono le braccianti che muoiono nei campi di fatica. Vabbè, adesso c'è colpa di Emiliano. Ma nel caporale la Puglia è colpa mia. Ma ho capito, ma dai. Cioè, adesso, ci sono bougainville là, bidonville pazzesche intorno a Foggia, non lo so, stamattina è un disastro tutto, no? Ma bisogna votare a maggio, a giugno, subito, cioè, Vincino vorrebbe votare subito a maggio, giugno, cioè, ormai la situazione, ma chi con questa legge elettorale, ma chi per mandare al governo, chi con questa legge elettorale, ma dai, ma chi mandiamo al governo? No. Allora, siccome non ho chi manda al governo, non voto. No, cioè, è una situazione così tutta sciofecata, totale. Sì. Sì, effettivamente, cioè, però, Esposito, questa allora, storia, cioè, abbiamo un premio con mezzo MCD, vabbè, lascia stare. L'altro mezzo PD pure l'ha sfacciato ancora. No, la questione sicuramente c'è. Aspetta, Vinci. La questione effettivamente, caro Esposito, che c'è un governo, con tutto il rispetto per Gentiloni, che è semi commissariato, dico appunto, cioè succede il casino dei taxi e tutte a mo' a chiedere quasi che ne pensa Renzi, e senza, dimenticandosi che abbiamo un presidente del Consiglio, Gentiloni, no? Esposito. Ribadisco, io il 5 dicembre dici: guardate, andiamo a votare a giugno, ridiamo la parola agli italiani, ci sono problemi giganteschi, a cominciare da come affrontiamo i benedetti burocrati dello 02 che stanno tra Bruxelles e Strasburgo. Gli ho detto comunque il segnale del referendum è stato netto, però se io sono abituato che quando prendo gli schiaffi perché sono tutti di un'altra opinione, ne prendo, ma anche lo stesso Renzi mi pare abbia a un certo punto dovuto prendere atto che il contesto non andava esattamente in quella direzione. Non dimentichiamoci che noi adesso parliamo di tutto, poi c'è un autorevole signore che si chiama Mattarella, che decide, della Repubblica, che decide, quindi noi possiamo avere le nostre legittime opinioni e poi dobbiamo fare i conti però anche con questo, sicuramente. Poi io sono convinto che andando avanti così la legge elettorale non la cambiamo né a marzo, né a aprile, né a maggio, né a giugno, né a ottobre, né a novembre, e voteremo con sì, tra l'altro, questa legge. Voglio sottolineare che oggi sui giornali, caro Vincino, tu che conosci l'argomento, c'è la storia di un signore, si chiama Angelo Massaro, ha 51 anni, è stato 21 anni in cella da innocente. È successo a Taranto, ora adesso non mi dirai, ecco la Puglia, i magistrati. No, non è vero! Non è vero. No, non è stato. Attenzione, si sono svegliati a casa Esposito. È il momento. Si è svegliata. Però non la zittisca così. Insomma, no, mi ha solo detto di andare. No, mi ha dato un ordine, mi ha detto di andare a prendere la felpa. Cioè, Virginia, ricordiamo, ha un po' il piglio autoritario del sindaco di Roma. Come gli ha detto Virginia? Papà, vai a prendere una felpa. È in fretta. Vai a prendere la felpa. Ah vabbè, dai, è stata anche gentile. Cioè, sono certo, bei momenti questi. Sì, perché, anche perché mica aspetta che, non so, a 6 anni aggiunga per favore. Al limite dice per coprirmi. A quest'ora del mattino appena sveglia. Esatto. È una bambina educata, però appena sveglia, naturalmente non si possa proprio pretendere no, l'educazione. Il massimo. Ricordiamoci. Se vuoi Milan, io le provo. Ti faccio salutare da Virginia. Sì, sì, Virginia, è sempre un grande momento. Se Virginia. È sempre un grande momento, aspetta. Eccoci. Pronto? Ciao. Sì, ciao Virginia, hai freddo? Di a papà di farti mettere una felpa e in fretta, grazie, perché insomma. Tutto bene? È un po' freddo. Eh sì. Guarda qua, noi diciamo i gradi, quindi quanti gradi ci sono, Virginia, a Torino? Il gelo. Non lo so, questa è una domanda. Questa è una domanda un po' trabocchetto, lo so, sono stato un po' scorretto. Virginia, una buona giornata, vai a scuola, mi raccomando. Ciao, buona giornata. Non ti faccio salutare da Vincino, perché Vincino saresti in grado di compiere danni anche con la luce bellissima, Abbiamo fatto un grande momento di radio. Signori, c'è da chiudere dicendo questo. Devo fare un piccolo editoriale. Sono arrivate a Milano, oltre che le palme portate da Starbucks, anche i primi banani. Stupendo, infatti. E invece, caro Vincino, sui giornali è tutto uno sfrangimento di noci di cocco. Ecco, la dico così, perché sono tornate le polemiche. Perché non piacciono due banani, non piacciono due palme, e quindi bisogna fare polemiche su tutto. E tu, Vincino... Io a Palermo avevo un banano, è meraviglioso. Banano è stupendo, guarda. Ma faceva le banane? Faceva delle cose, sì, più o meno, non quelle proprio precise, ma più o meno.